Europa 24. Un saluto a tutti voi, bentornati all'ascolto di Europa 24. Oggi un tema che è da tempo centrale nel dibattito della politica europea, non solo perché un terzo dell'intero bilancio europeo è orientato alla politica agricola comune, ma anche perché i biocarburanti, non solo in Europa, sono al centro di un dibattito e di posizioni fortemente divergenti. In tutto questo, l'approfondimento a cura di Laura Bettini. Un'estate così, tra picchi di calore e nubifragi, non aiuterà certo a placare gli animi degli agricoltori, in fibrillazione per la piega presa al Parlamento europeo dalla discussione sui biocarburanti. Da anni sotto inchiesta per l'impatto sulla biodiversità, le produzioni alimentari e i loro prezzi, ora osservati speciali anche per le emissioni di CO2. In un tentativo di mediazione tra le aspirazioni di severità della Commissione e quelle opposte dei coltivatori, la Commissione Ambiente del Parlamento ha proposto un tetto del 5,5% all'utilizzo dei biocarburanti di prima generazione, quelli derivati dalle produzioni alimentari come colza, soia e olio di palma. 5,5% sull'obiettivo del 10% di energie rinnovabili per i trasporti entro il 2020, come stabilito dalla stessa Unione Europea. La Commissione Europea aveva chiesto un limite inferiore del 5%. La Commissione Industria del Parlamento lo voleva superiore, il 6,5%. Le percentuali sono piccole, ma i soldi in gioco molti di più. Produciamo già oltre il 5%, si lamenta infatti Arnaud Petit, direttore di Copa Cogeca, organizzazione agricola europea. Molti agricoltori hanno già investito in questo settore. È un limite inaccettabile. La relatrice francese, Corinne Lepage, sa bene che l'industria ha investito nel settore, ma ritiene che bisogna trovare un equilibrio guardando al futuro. Per ridurre gli effetti dei gas serra e continuare a investire nei biocombustibili di seconda generazione, derivati da alghe e rifiuti, che, precisa la proposta approvata, dovranno rappresentare non meno del 2% del consumo entro il 2020. Non a prezzo, si sottolinea però, di avere un impatto negativo sulla biodiversità o destabilizzare la politica europea in materia di rifiuti e foreste. Ecco perché, nella proposta, al conteggio delle emissioni associate alla produzione dei biocarburanti dal campo al serbatoio, si introduce il fattore ILUC, il conteggio delle emissioni indirette, dovute ad esempio all'aumento delle superfici coltivate per mantenere invariata l'offerta alimentare sia umana che animale. Stanno facendo forti azioni di lobby contro questa proposta, commenta Bas Eickhout, membro olandese della Commissione Ambiente. Un po' mi stupisce, perché gli agricoltori hanno sempre saputo guardare avanti. Abbiamo bisogno di biocarburanti, sì, ma non vogliamo che provengano da produzioni alimentari. A chi vuol continuare così, diciamo, non va bene, bisogna cambiare. Soddisfatte ma non fino in fondo, diverse associazioni ambientaliste o umanitarie che avrebbero preferito un bando completo dei biocarburanti per tutelare la produzione alimentare del pianeta. A settembre l'esame della proposta passerà all'aula. Bene, grazie di essere stati con noi per questo primo appuntamento di settimana con Europa 24. Naturalmente grazie a Laura Bettini e a Peter Bescapè in regia. Noi torniamo domani intorno alle 13.10. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.